Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Il taglio delle tasse non è più rinviabile, lo dice la Corte dei Conti nel suo rendiconto dello Stato. Roma, arresti per corruzione e funzionari chiedevano soldi in cambio di pratiche per i condoni. Porto Empedocle, 28 migranti positivi al Covid, sulla nave quarantena Zazà il presidente Musumeci ci dice avevamo ragione. Calcio, si completa la prima giornata post-Covid della Serie A, Inter Sassuolo, Atalanta Lazio e Roma Sampdoria. Buongiorno Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata di tutte le notizie su Radio 24. Dunque, mentre il governo non ha ancora preso una decisione sulla riforma fiscale, interviene il procuratore generale della Corte dei Conti in occasione del giudizio sul rendiconto generale dello Stato e dice un intervento in materia fiscale non è rinviabile per questioni di giustizia, ma anche per sostenere il rilancio dell'economia. Allora cominciamo sentendo la voce del procuratore generale della Corte dei Conti, Fausta Di Grazia. Appare non più rinviabile un intervento in materia fiscale che riduca per quanto possibile le aliquote sui redditi dei dipendenti e anche dei pensionati, che pur essendo fuori dal circuito produttivo frequentemente sostengono le generazioni più giovani, oltre che le imposizioni gravanti sulle imprese alle quali sono affidate le concrete speranze di un rilancio del Paese. L'alleggerimento della fiscalità potrebbe evitare, soprattutto in un momento di crisi globale, la costante erosione del potere d'acquisto delle famiglie e un'ulteriore contrazione del mercato interno che non favorisce il gettito erariale. Sul fronte delle entrate, inoltre, non è stato ancora risolto in senso positivo il contrasto all'evasione fiscale. E dunque, dicevamo, il governo che con la maggioranza non ha ancora trovato una intesa sulla riforma del fisco, confermata ancora ieri dal ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Intanto una cosa è certa, l'Europa precisa e fa sapere che non si potranno usare i fondi del Recovery Fund per abbassare le tasse. Questi fondi andranno investiti in altri progetti. Per la fase 3 molte voci a favore del taglio delle tasse a lavoro e imprese, ma continua il dibattito politico sul taglio dell'IVA per rilanciare i consumi, ipotizzato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e anche l'Europa è scettica. I fondi europei andranno usati per progetti coerenti con quelli dell'Unione, ma con il Recovery Fund non si tagliano le tasse. Il piano infatti non sarebbe propriamente condiviso da Merkel e Macron, che stando a diverse indiscrezioni di stampa avrebbero fatto sapere al Presidente del Consiglio di non condividere il progetto fiscale. Su questa linea anche il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Sulle pagine del Messaggero oggi ribadisce che i fondi europei non hanno questo fine, servono investimenti e riforme per il lavoro e il benessere, dice, non certo per abbassare le tasse. Certo, anche Sassoli precisa che la proposta sul taglio dell'IVA può essere un intervento temporaneo e utile e non chiude, come aveva fatto ieri a Telefisco anche il ministro dell'economia Gualtieri, che aveva parlato di misura congiunturale, invocandola invece di strutturali, come la riduzione del costo del lavoro. Cauto anche Romano Prodi sul Quotidiano Nazionale, che ricorda l'eccezionalità degli aiuti europei per l'economia e sanità, tra cui il MES senza condizioni. Bisogna valutare, sottolinea, se sia meglio ridurre l'IVA, il cuneo fiscale o prendere altre misure e capire cosa vuol dire temporaneità delle misure. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Invariate le condizioni di Alex Zanardi, il bollettino è stato diffuso poco fa. Zanardi è ricoverato per la quinta notte in terapia intensiva senza sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche, rimane però grave il quadro neurologico, scrivono i medici, e la prognosi resta riservata. L'ospedale aggiunge che non verranno diffuse nelle prossime ore ulteriori bollettini medici sino a quando non ci saranno variazioni significative. E ora con la cronaca a Roma. Dopo Milano, anche a Roma arresti per corruzione in una indagine che ha messo nel mirino presunte irregolarità in alcune pratiche di condono edilizio. Arresti domiciliari a Roma per 6 persone ritenute responsabili a vario titolo di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, truffa e falsa attestazione e certificazione. La misura cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale Capitolino su richiesta della locale Procura della Repubblica. Le indagini, avviate dai carabinieri della compagnia Roma Eura nel mese di settembre del 2016, hanno permesso di riscontrare irregolarità su come venivano trattati accertate le pratiche di condono edilizio da parte di 4 dipendenti della società Risorse per Roma S.p.A. in servizio all'ufficio condono edilizio, da un funzionario del Comune di Roma e da un geometra libero professionista. In particolare, i pubblici impiegati avrebbero richiesto indebiti compensi in denaro dai privati che avevano in pendenza l'istruttoria di istanze di condono di immobili per aggirare la burocrazia, manovrando le richieste per sanare violazioni edilizie e per regolarizzare immobili abusivi. Sequestrati i conti correnti di alcuni degli indagati per un valore di 455.000 euro. La sindaca Raggi si dice fiera del dipendente che ha denunciato le mele marce. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Critiche intanto alla bozza del piano scuola elaborato dal Ministero dell'Istruzione per la ripresa a settembre arrivano dall'Associazione Nazionale Presidi. Il piano, dice il presidente Antonello Giannelli, non contiene indicazioni operative né definisce livelli di servizio, ma si limita a elencare le possibilità offerte dall'autonomia senza assegnare ulteriori risorse. Ne parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno. Preoccupano intanto i nuovi focolai di coronavirus nei vari paesi, tra Germania, Serbia e Stati Uniti. In Italia invece 28 migranti a bordo della nave quarantena Moby Zaza sono risultati positivi al Covid. Sono 28 i migranti risultati positivi al Covid-19 fra i 209 sottoposti a tampone a bordo della Moby Zaza in rada a Porto Empedocle. Erano stati tutti salvati in acque internazionali dalla nave Sea-Watch e imbarcati sulla nave quarantena. Avevamo ragione noi, scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che aveva preteso il 12 di aprile una nave in rada perché i migranti che arrivano dall'Africa trascorressero la quarantena per evitare, dice il governatore, che si sviluppassero focolai sul territorio. Focolai che si accendono e preoccupano ad esempio la Germania. Il distretto di Gütersloh verrà sottoposto di nuovo al lockdown a causa dell'infezione esplosa nel mattatoio di Tönnies. Sono 1535 i contagi. Dall'altra parte dell'oceano, intanto, Trump ha sospeso fino a fine dell'anno alcuni visti di lavoro e di studio negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, l'Unione Europea sta mettendo a punto la lista dei paesi con cui riaprire le frontiere dal 1 di luglio. Fra gli esclusi potrebbero esserci Stati Uniti, Brasile e Russia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Presentato oggi il nuovo rapporto dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni italiane, che ha valutato vari parametri di efficienza e efficacia dei sistemi sanitari. Uno dei punti emersi dal rapporto è il rischio che il decentramento sanitario delle regioni si trasformi in un impoverimento dei servizi in alcune zone, come spiega il professor Walter Ricciardi, direttore dell'Osservatorio, al microfono di Nicoletta Carbone. È a rischio perché di fatto noi veniamo da 10 anni di sottofinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale in tutte le regioni italiane, però in alcune, quelle commissariate, il sottofinanziamento è arrivato praticamente al blocco dei servizi, al blocco del turnover, quindi non c'è più personale, e questo si è evidenziato in tutta la sua drammaticità nello tsunami del coronavirus, in cui la parte migliore del paese, cioè la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto, dal punto di vista delle performance, è stata annichilita da questa pressione incredibile. Sono 20 anni che monitoriamo queste differenze, che in tempo di pace, tra virgolette, generano disuguaglianze, ma in tempo di guerra, come quella al coronavirus, generano morti e feriti, cioè generano sostanzialmente una differenza abissale nella capacità di risposta. E io credo che questo debba essere modificato, però non la vedo facile, perché la Costituzione ancora affida alle regioni questa responsabilità e ci vorrebbe uno sforzo, come posso dire, di buona volontà da parte di tutti. Ancora una notizia di cronaca con una operazione anti-ndrangheta che ha mobilitato centinaia di membri delle forze dell'ordine, 21 arresti, decapitate le cosche calabresi De Stefano, Tegano e Libri. Si chiama Malefix l'operazione coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, con cui la polizia ha assicurato alla giustizia 21 persone accusate di associazione mafiosa, estorsione e detenzione e porto di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso. Colpite le cosche storiche di Reggio, come i Tegano, i De Stefano e i Libri, e sequestrate diverse società. Gli investigatori, grazie al monitoraggio di alcuni summit di 'ndrangheta, sono riusciti a ricostruire anche il tentativo di scissione della famiglia Molinetti dalla casa madre dei De Stefano, documentati anche i forti attriti nati tra la cosca De Stefano Tegano e quella dei libri, e per questo venne anche creata una sorta di commissione tecnica per studiare nuove forme di spartizione ed evitare sovrapposizioni, creando un efficiente sistema di estorsioni a tappeto sul territorio a danno degli operatori commerciali di Reggio. Nell'operazione sono stati impiegati circa 200 agenti, con la collaborazione delle squadre mobili di Milano, Como, Napoli, Pesaro, Urbino e Roma. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. Siamo allo sport, è dunque iniziata l'estate con tanto calcio. Ritroviamo Carlo Genta. Ciao Carlo. Ciao Alessio, ciao a tutti. Allora, sì. Che succede anche oggi? Che si marcia velocissimi, a ritmo di svariate partite ogni giorno. Tre anche oggi. Oggi tre, e soprattutto tre partite bellissime, a cominciare da Atalanta-Lazio, che vabbè è un big match al vertice, 21:45. La Lazio non l'abbiamo ancora vista dopo questa ripartenza, e c'è molta curiosità per capire come, in quali condizioni si ripresenta squadra di Inzaghi, anche perché avremo invece l'occasione di rivedere prima alle 19:30 l'Inter che riceve il Sassuolo. L'Inter, ecco, è quella che più ha impressionato delle big fin qui, e quindi sarà un bel test. Rivedremo anche la Roma contro la Sampdoria, che proprio è stata battuta dall'Inter l'altro ieri. Quindi queste le tre partite di oggi. Quanto a ieri, c'è stata la conferma dello splendido momento del Napoli, che dopo aver vinto la Coppa Italia ha vinto su un campo difficilissimo come Verona 2-0, e poi in zona salvezza importante l'1-0 del Torino sull'Udinese. Brutta caduta del Genoa 4-1 in casa con il Parma, poi Cagliari che vince a Ferrara con la Spal 1-0. Alessio. Grazie Carlo. Sport che torna protagonista dopo le 14, naturalmente come ogni giorno con Carlo e compagni. Noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa, Effetto Giorno torna tra poco. Ripartiremo da come potrebbe essere la scuola a settembre, perché ci siamo forse vicini alla versione definitiva. C'è il piano del Ministero dell'Istruzione che tra le varie novità prevede patti di comunità con volontari che dovrebbero affiancare gli insegnanti per garantire la didattica in sicurezza. Poi ve lo anticipo, alle 13:30 parleremo della chiusura delle indagini su Bibbiano, perché i giudici hanno mandato a processo 24 persone. Dunque l'impianto accusatorio su Bibbiano resiste alla prima fase delle indagini preliminari. 349-238-6666 per i vostri messaggi. A tra poco. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus free, dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni, aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. Effetto Giorno. Queste notizie di oggi. Il taglio delle tasse non è più rinviabile, lo dice la Corte dei Conti nel rendiconto dello Stato. Roma, arresti per corruzione, funzionari chiedevano soldi in cambio di pratiche per i condoni. Porto Empedocle, 28 migranti in quarantena positivi al Covid. Scuola, il MIUR presenta il piano per settembre, volontari a fianco degli insegnanti. Effetto Giorno, ne parliamo con il coordinatore scuola della conferenza Stato-Regioni. Serie A, si completa la 20ª giornata, si gioca Atalanta-Lazio, in campo anche Inter e Roma. 13:16, cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto Giorno. Dunque, come avete sentito anche dai titoli, parliamo del piano per la scuola fatto filtrare dal MIUR, che sarà protagonista domani della conferenza Stato-Regioni, da cui potrebbe uscire un piano definitivo per settembre. Si parla di turni, si parla di andare a scuola il sabato, si parla ancora di didattica digitale, si parla di far scuola in cortili, teatri, cinema, biblioteche, ovunque ci sia spazio per aumentare la rarefazione, e poi anche di educatori e volontari che affiancano gli insegnanti proprio per aumentare le possibilità per fare didattica in sicurezza. Ne parliamo con l'assessore all'istruzione della Regione Toscana, Cristina Grieco. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Che è anche la coordinatrice della Commissione Istruzione della Conferenza delle Regioni. Allora, da qui che abbiamo capito, rispettando il principio dell'autonomia scolastica, ci sono una serie di possibilità che vengono affidate ai presidi, i quali però si sono anche lamentati già di queste linee guida, perché dicono che non ci sono paletti certi e non ci sono soprattutto risorse aggiuntive per poter mettere in piedi alcune di queste soluzioni. In ogni caso, autonomia scolastica. Io la prima cosa che le voglio chiedere è proprio questa, Grieco, stante il fatto che dovete ancora, diciamo, limare il piano e mettervi d'accordo Stato-Regioni, ci sono già delle cose certe che si faranno in tutte le scuole e invece delle altre soluzioni che varieranno da scuola a scuola in base alle condizioni delle singole scuole, per fare un po' di chiarezza su questo aspetto? Cosa è che accomunerà tutti a settembre a scuola? Ma intanto, guardi, in questo momento è in corso e sto coordinando la riunione di tutti gli assessori regionali, per cui insomma stiamo analizzando il documento, soprattutto stiamo analizzando, e non è cosa da poco, l'aggiornamento appena ricevuto delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico che aggiorna che cosa si intende per distanza interpersonale di un metro. Questo lo specifico è un altro punto ancora che riguarda la distanza e le mascherine in particolare. Esatto, vero? Esatto. E quindi io credo che il punto comune è che tutti vogliamo rientrare e vogliamo far rientrare gli studenti in presenza e in sicurezza, soprattutto nel primo ciclo assolutamente in presenza, perché la didattica... Quindi primo ciclo in presenza, specifichiamo bene di cosa stiamo parlando? Quindi dalle scuole d'infanzia fino alle scuole medie, mm-hmm. Quindi dobbiamo organizzare un rientro che sia in presenza appunto, ma nel rispetto delle indicazioni per... Ma siamo già in grado di dire che scuole elementari, medie e dell'infanzia non faranno più didattica digitale a settembre? Questo è l'obiettivo che noi come regioni abbiamo posto insomma in maniera molto, molto, molto forte. Cos'è che potrebbe impedirlo però a questo punto? Ma allora, quello che ci preoccupa del piano, insomma, cercheremo di interloquire con il Ministero prima di domani, ma, quindi per arrivare a un testo condiviso, è che è molto generico e che soluzioni diciamo che possano in qualche modo risolvere le situazioni di criticità degli spazi, quindi laddove non sia possibile distanziare, richiedono delle risorse, quindi ci vuole organico, quindi ci vuole l'organico necessario alle scuole per risolvere con tutte le soluzioni organizzative che in autonomia insomma le scuole potranno prevedere, che vengono anche proposte a titolo di esempio nel piano, però necessitano di organico, quindi questo Senta, deve essere a disposizione. Esatto, a questo proposito è giusto dire che la previsione di questi patti di comunità che dovrebbero, diciamo, come dire, integrare educatori extrascolastici ma anche volontari, dovrebbero affiancare gli insegnanti proprio per aumentare questa, diciamo, lo smembramento delle classi, per consentire la rarefazione e quindi consentire didattica in sicurezza da un lato e, come dire, un accompagnamento educativo dall'altro in spazi esterni rispetto alle classi e alla scuola, gestiti da questi educatori / anche volontari, è anche questo di cui si sta parlando? Sì, è una previsione appunto nell'ambito di questo patto di comunità in cui ognuno deve mettere a disposizione spazi, risorse, tenendo conto delle peculiarità del territorio. Però c'è anche da dire che c'è tutto un tema di responsabilità, c'è una normativa statale, quindi a un patto di comunità comunità deve corrispondere anche una definizione delle responsabilità molto precisa, che non può essere lasciata tutto in capo ai dirigenti. Esatto, ma c'è un limite, le chiedo, Grieco, di, come dire, di spazio, di tempo, di occupazione del tempo dei ragazzi, una percentuale, come dire, una soglia sotto la quale non si può andare per quanto riguarda queste attività extra scolastiche? Che peso avranno nel caso, diciamo, peggiore? Ma dunque, questo non è definito, però non credo che nemmeno sia importantissimo, nel senso che sapere se i ragazzi faranno scuola o faranno altre attività per consentire ad altri fare scuola. I ragazzi devono fare scuola. Se poi si organizzano dei gruppi, diciamo, per consentire il distanziamento e quindi ridurre il numero di alunni nell'aula, e questi gruppi magari possono fare attività senza didattiche, magari sì, in modalità. No, ma il concetto, scusi Greco, è chiaro, la domanda era se esiste un paletto, se lei pensa che debba esserci, diceva poco fa, c'è il rispetto, diciamo, della normativa nazionale che riguarda la scuola, se debba essere messo un paletto per dire non si può fare più del 10%, del 5%, del 20%, adesso io sto sparando, mi scusi, è molto a caso, una cifra di attività extrascolastiche. Cioè, ci sarà un paletto secondo lei? Appunto, ecco, è questo, quando io dico che il documento è generico, secondo me benissimo l'autonomia delle scuole. Io sono un dirigente scolastico, una vita per cui vediamo, ci sono una sostenitrice dell'autonomia delle scuole, però ci devono essere dei punti fermi più precisi. Il punto del distanziamento adesso è stato chiarito, altrimenti per noi sarebbe stato un elemento di criticità enorme. E come è stato chiarito il punto di distanziamento? Il distanziamento un metro da bocca a bocca dell'alunno e 2 metri con il docente, quindi almeno questo ci permette di individuare i casi di criticità, perché è il punto di partenza. Quindi in termini di metri quadri, perché si è parlato anche di questo, no? C'erano i 4, i 2, eccetera. È possibile fare un'equivalenza per quanto riguarda i metri quadri? Allora, naturalmente è un parametro più flessibile, che sta ampiamente dentro a quelli che abbiamo proposto anche noi come regioni, di 1,8-2 metri quadri a bambino. Okay. Anzi, che permette più flessibilità. Però questo dovrebbe essere un paletto. Non avevamo neanche questo. Quindi, questo potrebbe consentire, mi sembra di capire quello che lei dice, una flessibilità maggiore, quindi la possibilità per molti forse di riuscire a rimanere tutti in classe contemporaneamente. Esatto. Quando dico che è il punto di partenza, perché bisogna individuare quali sono le criticità, cioè i casi in cui non c'è possibilità di garantire il distanziamento, quindi quello che prevede il comitato tecnico. Chiaro. Questi casi vanno risolti, però a seconda di quanti sono in percentuale questi casi, è chiaro che il problema assume dimensioni diverse, quindi si parte da lì e poi appunto alcuni paletti vanno messi, perché insomma si fanno esempi di organizzazione certamente utili, e ogni dirigente sa come, che cosa ha a disposizione per spazi alternativi, però come giustamente il buon senso ci fa dire, bisogna pure fare scuola, quindi bisogna dare un perimetro, una cornice all'interno della quale le scuole si possano muovere, però non dando tutta la responsabilità a dirigenti scolastici. Va bene, va bene. Preoccupazione. Grazie assessore Greco, mi scusi se chiudo così un po', diciamo, rapidamente, ma del resto abbiamo capito che queste cose di cui abbiamo appena parlato sono, diciamo, scritte con l'inchiostro simpatico, perché finché non arrivano questi parametri, per usare un'espressione così leggera, volutamente, finché non arrivano queste, diciamo, parametri più precisi, stiamo parlando forse ancora una volta di tutto e di niente. Staremo a vedere. Adesso invece vogliamo aprire una finestra insieme a Giacomo Enrico, presidente della FIVA Confcommercio, che si occupa dei venditori ambulanti su aree pubbliche. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. una finestra proprio su questo settore particolare del commercio che è sensibilmente in difficoltà. Ieri c'è stata una manifestazione anche a Montecitorio per questo, voi non eravate presenti perché non eravate una sigla, diciamo, coinvolta in questa iniziativa, questo non è importante, però il punto, Enrico, è che effettivamente insomma, il settore è in difficoltà e lamenta anche una discriminazione rispetto ad altri settori del commercio per quanto riguarda, diciamo, gli aiuti, gli incentivi ricevuti, per esempio per quanto riguarda dalla TOSAP, la tassa che si paga per l'occupazione del suolo pubblico, giusto? Giustissimo, cioè, guardi, le do due esempi che le dicono sì. Qual è la disattenzione che qualcuno ha avuto sul nostro comparto. La prima disattenzione sta nel fatto che si è consentito alla grossa distribuzione di vendere gli alimentari a chiuso e si è vietato di vendere gli alimentari ai commerci ambulanti all'aperto, e questo la dice lunga sulla disattenzione. Le dirò di più: nel decreto, nel DPCR che è entrato in vigore il 18 maggio del 2020, ci dava la possibilità di aprire solo i mercati alimentari, ma a condizione che fossero intanto che entrassero due persone ogni bancarella, follia. E poi che ci fossero il recintato, il mercato, ma queste spese di transenne, recintare, le persone che controllavano che non entrassero più persone di quelle che erano consentite, chi misurava la febbre, non fossero a carico dei comuni e che non dovevano essere gravate sulle spese comunali. Va da sé che ci siamo accollati noi i costi e gli oneri, abbiamo pagato noi questa roba per far iniziare i mercati solo il settore alimentare, altrimenti non iniziavano. Sì, scusi solo una precisazione, Enrico, effettivamente come anche la grossa distribuzione si è pagata, diciamo, i suoi aggravi di costo per misurare la temperatura. Sì, ma loro l'hanno fatta lavorare, a noi no però. Sì. Cioè, anche io ho dimostrato... Con questa differenza, sì, vabbè. Certo. Il plateatico, tanto per essere chiari, noi abbiamo chiesto la esenzione del plateatico almeno per il periodo che non abbiamo lavorato, cioè da marzo fino a fine maggio, ma anche qui andiamo a incappare in un decreto che è sempre lo stesso, che dice che tu puoi fare le agevolazioni che vuoi, ma non devi fare sconti di cassa perché soldi non ci sono. E allora delle due l'una, o tu dai la produttività, stesse regole, stesso mercato per tutti, o è una discriminazione, mi sembra palese. Quindi assolutamente. La disattenzione nei nostri confronti è totale. Giacomo Enrico, io la ringrazio per essere stato con noi in questo breve spazio nel quale comunque abbiamo, diciamo, vi abbiamo dato la possibilità di esprimere il vostro disagio e le vostre preoccupazioni per questa situazione in cui versa il commercio all'aperto, che effettivamente è vero, si presta, come dire, a un distanziamento, a una rarefazione delle persone più facile sicuramente che non i negozi al chiuso. È vero però che è più difficile gestire poi, come dire, proprio questo, il distanziamento, perché in un negozio posso far entrare una persona per volta, banalmente, al mercato all'aperto no. Quindi dei problemi da risolvere ci sono ancora per evitare di ricadere in fasi acute dell'epidemia, ma insomma, almeno su alcune delle questioni che lei ha sollevato, credo che ci debba essere attenzione da parte del governo. Grazie ancora, ci fermiamo, torniamo tra poco. 349-238-6666, la chiusura delle indagini sul caso di Bibbiano, tra poco. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Il taglio delle tasse non è più rinviabile, agire sul lavoro e pensioni, dice la Corte dei Conti. Arresti per corruzione a Roma, funzionari chiedevano soldi in cambio di pratiche per i condoni. 28 migranti in quarantena a Porto Empedocle sono risultati positivi al Covid. Bibbiano chiusa l'inchiesta sugli affidi illeciti, 24 rinviati a giudizio, ne parliamo tra poco. Serie A si completa la prima giornata post-Covid, si gioca Atalanta-Lazio, in campo anche Inter e Roma. Il punto di Alberto Orioli. Avremmo dovuto fare della riapertura delle scuole lo spot della nuova Italia del dopo Covid, quella che ha capito quali sono le vere priorità del paese, e l'istruzione è la prima, perché all'Italia manca un sistema efficiente che colleghi il sapere al lavoro e che sia il vero nucleo per la selezione delle classi dirigenti. L'anno scolastico monco resterà una ferita per una generazione. Ora arrivano 18 pagine linee guida del Ministero per riaprire a settembre. Lezioni più corte, classi di sottogruppi, didattica mista, in presenza e online. Poi cominceranno le ricognizioni per i lavori di sistemazione leggera dei nuovi spazi, ma servirà tempo. E tutto resta in capo alle singole scuole, in ossequio all'autonomia scolastica prevista dall'ordinamento, ma forse non dal buon senso, che in questa fase vorrebbe vedere un intero paese concentrato sull'obiettivo di consentire ai nostri bambini e ragazzi di ricominciare a studiare nelle aule. Magari aule ricostruite, adattate alle nuove esigenze o recuperate velocemente, magari frutto di lavori straordinari giorno e notte H24, secondo chissà un modello Ponte di Genova applicato all'edilizia scolastica. Ma è difficile oggi vedere il cambio di passo. Ad esempio, la scuola avrebbe dovuto essere la bandiera degli Stati Generali di Villa Pamphilj, ma non è andata così. E ora resta l'angosciante sensazione che siamo in ritardo. E va bene, adesso come annunciato ci occupiamo del caso di Bibbiano. Torna a trovarci Pablo Trincia, giornalista, autore di diverse inchieste, ha seguito per Chi l'ha visto tutto il caso di Bibbiano. Ciao Pablo, ben ritrovato. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao a voi. E allora, è stato tra l'altro chiamato a testimoniare proprio al processo dal PM Valentina Salvi, il processo che... diciamo, siamo nella fase delle indagini preliminari e del rinvio a giudizio, 24 rinvii a giudizio, tra i quali il sindaco di Bibbiano, l'ex dirigente dei servizi sociali dell'Unione Valdensa, gli psicoterapeuti Foti e Bolognini. Sostanzialmente, con questa decisione di andare a processo per queste 24 persone, sembra di capire che il quadro accusatorio costruito dai PM sul caso di Bibbiano per questi presunti illeciti affidi di bambini si regga. La prima domanda è proprio questa, Pablo: cosa emerge anche rispetto alle onde emotive che ci sono state su questo caso da parte dell'opinione pubblica? Prima grande attenzione, poi sembrava una minimizzazione, perché sembrava che invece il quadro stesse, diciamo, un po' diminuendo di intensità. Invece? Beh, invece, come dicevi tu prima, l'impianto probatorio qui sembra molto solido, nel senso che ci sono tantissime intercettazioni, ci sono degli audio e dei video nei quali appunto questi psicologi parlano con i minori e a quanto pare cercherebbero di indurli ad accusare i propri genitori o comunque a rompere i legami familiari con i propri genitori. Per cui poi negli ultimi mesi, diciamo, prima della chiusura delle indagini, è stata fatta una lunga analisi su tutti i dispositivi che erano stati sequestrati a quelli che oggi sono gli imputati, e quindi pare che siano emerse anche lì ulteriori prove, messaggi. C'erano appunto alcune delle persone sotto inchiesta che parlavano tra di loro e si dicevano: ma che cosa sta accadendo qui? La situazione sta un po' sfuggendo di mano, questa persona sta esagerando, quest'altra si sta comportando male. Insomma, addirittura tra di loro avevano a un certo punto iniziato a parlare del fatto che venivano commesse, c'era una modalità di lavoro che era, se non altro, da mettere in dubbio, anche perché questo è un tema che non si conosceva prima, sostanzialmente. È un tema che fino a poco tempo fa non trovava spazio, diciamo, sui telegiornali o sui titoli di giornale, perché era un tema molto poco conosciuto, perché riguardava una materia poco conosciuta che è la psicologia, perché adesso questo io il motivo non lo so, io mi sono occupato di una storia simile, che è appunto il caso dei pedofili della Bassa Modenese, avvenuto 20 anni fa, in cui anche lì nessuno se n'era occupato in maniera approfondita, se non i giornali locali, ovviamente, ma insomma la grande stampa, i grandi media no. Quindi quando è arrivata questa cosa qui è stata presa anche un po' con superficialità, forse, da cui anche quelli che hanno iniziato a sminuire, a dire che non era vero, certo. Però perché non avevano letto le carte. Ma ci aiuti a capire poi anche meglio quali sono le ipotesi di reato, perché si va da ipotesi di reato, errori, inefficienze, cose come peculato, abuso d'ufficio, ad altre ipotesi molto molto lesioni più pesanti, gravissime. Perché ecco, sostanzialmente sembra di capire che queste associazioni, questi psicologi, questi psicoterapeutici falsificavano alcuni documenti, manipolavano le condizioni di disagio da cui partivano in alcune famiglie, ma che magari erano pure reali, per poi guadagnarsi, come dire, il lavoro che è poi nelle consulenze, nel lavoro di affidamento vero e proprio. Però ecco, fino a che punto arrivavano anche queste ipotesi di reato, perché parliamo di lesioni e maltrattamenti. No, esatto, quelli sono l'aspetto più inquietante, quello più che ovviamente l'abuso d'ufficio, che poi per carità è grave, ma qui si parla di appunto bambini che di fatto sarebbero stati sottoposti a incontri altamente suggestivi e che avrebbero poi provocato delle profonde fratture all'interno dei nuclei familiari. Cosa, ripeto, che è già successa tante altre volte in tanti altri casi che però non sono mai venuti alla luce del sole, di fatto sì, c'era questa specie di, si era creata questa specie di network tra i servizi sociali della Valdenza, il centro studi Hans Legret di Torino, sì. Che da tanti anni si occupa di tematiche riguardanti i bambini vittime di abusi, di maltrattamenti, di soprusi, e quindi c'era questo passaggio di questi bambini che venivano allontanati con metodi molto dubbi, perché poi dopo ci sono stati dei riscontri anche da parte dei carabinieri all'interno delle loro abitazioni, delle loro famiglie. Questi bambini venivano allontanati con metodi molto dubbi e venivano subito affidati a questi psicologi che appunto avrebbero utilizzato, almeno così emerge anche dalle intercettazioni che abbiamo tutti sentito, letto, usavano questo metodo per cui cercavano l'abuso sessuale nei bambini anche quando i bambini non parlavano di abusi sessuali. Provocando però anche in questo dei traumi, perché andavano ad aprire delle fratture che magari non c'erano, ma dovevano in qualche modo agire sulla psicologia. Guarda, io una cosa che mi ha impressionato moltissimo, sì. Perché io poi purtroppo di questo argomento mi sono occupato tanto, proprio per il fatto che appunto ho studiato tanto il caso della Bassa Modenese. Una volta avevo parlato con uno psichiatra che mi aveva detto questo: gli abusi sessuali realmente vissuti non si possono magari superare, ma ci si può convivere. Uh-huh. Gli abusi immaginati, frutto dell'immaginazione, ti lasciano dentro dei fantasmi e con i fantasmi si perde sempre. Sì. Quindi i traumi che questo genere di interrogatori suggestivi o di domande suggestive o di affermazioni altamente suggestive possono causare nei bambini sono devastanti, perché uccidono nuclei familiari, uccidono il rapporto a volte in maniera irrimediabile tra madre e figlio, tra padre e figlio, tra nonni e nipoti, tra zii, quindi creano, sono delle bombe che fanno dei danni a decine di persone, e quindi questa è la cosa, è l'aspetto secondo me più inquietante. Questa è una storia quasi da film, ma anche a scrivere una sceneggiatura su questo uno dice no, ma non sta in piedi perché è surreale. E invece era la realtà, invece era proprio la realtà. Naturalmente parliamo, io ti ringrazio Pablo Trincia per essere stato con noi, grazie davvero per averci aiutato a capire questa fase delle indagini, del processo, il rinvio a giudizio di 24 persone, l'appuntamento per l'udienza preliminare il 30 ottobre, parliamo di presunti colpevoli naturalmente, però il quadro è abbastanza chiaro, ci sono prove, altrimenti non ci sarebbe stato questo rinvio a giudizio. Parliamo di presunti colpevoli, staremo a vedere, ci deve essere un processo, ci mancherebbe altro, però certo anche per quanto riguarda la gestione di questi casi che spesso comuni e magistratura stessa affidano a queste associazioni senza un controllo ulteriore, apre sicuramente tutta una serie di riflessioni che prima o poi, come diceva lo stesso Trincia, andranno fatte, perché fin qua non si sono fatte. Effetto Mondo tra poco con Giulia Crivelli.